24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Raffaele Bonanni, 64 anni, abruzzese, sposato con 3 figli. Inizia come manovale, poi frequenta il corso del Centro Studi della CISL Firenze. Nel 1989 è segretario generale in Sicilia. In prima linea nella lotta contro le infiltrazioni mafiose, negli appalti e nella vita pubblica siciliana. Cattolico, ha dichiarato di far parte del cammino dei neocatecumenali. Dal 27 aprile del 2006 è segretario nazionale della CISL, riconfermato nel 2009. Di fronte all'esplosione della protesta dei forconi ha detto: chi ha interessi da rappresentare non può arrivare alla violenza. Ecco, segretario Bonanni, l'Italia sembra che stia prendendo un po' fuoco, il sindacato è assente, siete tagliati fuori? No, non siamo tagliati fuori, perché appunto chi ha da gestire interessi tratta, discute, preme. E non fa violenza. E non fa violenza, non serve la violenza, noi siamo proprio contrari costituzionalmente alla violenza. È una protesta che vi scavalca questa? Ma è successo frequentemente nella storia della Repubblica, ogni tanto, soprattutto in condizioni di... politica che balla, che scricchiola, così via, ci sono movimenti del genere. Ma ci sono segnali di violenza, segnali di pericolo della tenuta sociale? Ma ci possono essere sempre se siamo disattenti. Ma lei li sente in questo momento? Sento che ci sono delle realtà minoritarie, ma che hanno intenzione di appiccare il fuoco. Sento che ci sono pressioni infiltrati? Importanti. Quelli ci sono stati sempre. Anche questa volta, secondo lei? Anche questa volta si vedono i segni. A Torino è successo qualcosa di poco speciale, chiaro e molto speciale. Senta, parliamo di nuove forme di protesta, non di violenza. La Camusso ha detto che lo sciopero generale non è più una forma efficace di protesta. Lei è d'accordo? La buon'ora, noi lo sosteniamo davvero da molti anni e io sono stato offeso, sono stato... perfino aggredito per aver sostenuto questo. I lavoratori, diceva Wojtyla, il Papa Wojtyla, lo sciopero è uno strumento estremo, tra l'altro costa al lavoratore, costa anche un'impresa. Ma quindi è la Camusso che ha cambiato idea, è venuta la sua posizione. Senta Bonanni, a proposito di novità, il presidente Letta ha proposto l'altro giorno ai sindacati il modello tedesco della cogestione nelle imprese, va bene? Va benissimo, la CISL nasce su questa idea già nel 50. Per noi, quindi voi siete favorevoli alla cogestione? Siamo favorevoli perché in quel modo si supera l'antagonismo, esatto. Il lavoratore diventa responsabile perché ha potere. Esatto, in Germania infatti funziona e quindi potrebbe funzionare anche qui. Potrebbe funzionare benissimo, arriveremo... È un superamento della lotta di classe, possiamo dire. Anche la dirigista Francia con Hollande l'altro anno ha fatto lo stesso provvedimento, far partecipare i lavoratori alle aziende grandi, alle decisioni nelle aziende Insomma, grandi. Insomma, si supera la lotta di classe così in qualche modo. Si supera la lotta di classe e c'è lo spazio per un lavoratore consapevole e responsabile del suo spazio, del suo contesto. E infatti sarebbe un modello di impresa fondato appunto sulla responsabilità comune rispetto ai risultati. La crescita dell'impresa riguarda senz'altro l'imprenditore, ma riguarda anche il lavoratore e la sua sicurezza del lavoro, la sua possibilità di guadagnare di più e di avere più potere. Ci sarebbe poi magari da discutere sul che fare degli investimenti, che investimenti fare nelle generazioni, può esserci una differenza di interessi. Ma ecco perché è importante esserci, perché bisogna che anche il lavoratore possa esprimersi e se è consapevole e responsabile, ha un'idea chiara di come può evolvere la propria impresa. Senta, Renzi ha detto che se il sindacato non cambia diventa il simbolo della conservazione corporativa e basta. C'è questo rischio? C'è sempre questo rischio, d'altronde lui farebbe bene oggi, io lo stimo molto, farebbe bene a occuparsi della politica. È evidente, la rappresentanza politica è in grande difficoltà. Senta, ma che effetto le hanno fatto queste parole di Renzi rispetto al sindacato? Ma come stimolo, io... apprezzo Renzi, credo che sia un fatto di novità positiva per la politica italiana, credo che le sue parole fanno bene essere pronunciate, ognuno faccia la propria parte. Qual è la parte che deve fare Renzi adesso, secondo lei? Renzi deve riorganizzare la politica che le riguarda, il suo campo, lo deve riorganizzare in termini moderni e deve essere in grado di dialogare con tutte le rappresentanze, quelle sociali, quelle economiche, perché è importante che il paese esca dalla crisi con la coesione e non con la confusione. Senta, si criticano molto sempre i partiti per i loro finanziamenti, però dei sindacati si sa pochissimo. Qual è il vostro bilancio? No, si sa moltissimo, però ognuno di quelli che si sentono nostri avversari hanno bisogno di fare depistaggio. I nostri proventi vengono solamente dalle deleghe dei lavoratori. Deleghe dei lavoratori. Tutti dagli iscritti, insomma. Tutti dagli iscritti. Cioè, gli iscritti gli tolgono... Dà fastidio a molti poteri forti nel paese, perché il sindacato a quel punto diventa autonomo come il mio, però è così, solo dai lavoratori. E quanto è il bilancio vostro? Mi dica la somma finale. Ma il bilancio nostro è molto articolato. Ma vabbè, ma una perché cifra. Ogni... No, una faccia lunga, una cifra. La cifra non si può dire, vabbè, perché ogni... Unione, sede, se non si può dire, lasciamo perdere. Senta, segretario Bonanni, una cosa però è certa: il sindacato non intercetta più il bisogno di lavoro di giovani. Perché? No, intercetta poco. Intercetta i giovani che lavorano. Allora facciamo così: mi dica una buona ragione per cui un giovane che cerca lavoro dovrebbe credere in voi. Ma perché è il modo migliore per far partecipare anche lui alle decisioni che si fanno nei posti di lavoro, sì, attraverso le azioni sindacali. Sì. I giovani si iscrivono al sindacato a condizione che lavorano. Se lavorano, se non c'è lavoro non possono iscriversi. Se non lavorano non possono iscriversi. Ma se non c'è lavoro non possono iscriversi. Certo, non possono iscriversi. Allora il problema è anche crearlo, il lavoro. Senta, facciamo degli esempi concreti. Un imprenditore si organizza e Convindustria, se è imprenditore. Senta. Se non lo è, non si iscrive. Senta, facciamo esempi concreti allora. Gli incentivi per l'apprendistato sono spesi bene? Non sempre. Dov'è che non sono spesi bene? Me lo dica. Quando si sostiene che... Mi dica dove non sono spesi bene. Quando si sostiene che vanno a favore della formazione e la formazione non si fa. E si usa l'apprendistato solo per pagare di meno le persone che lavorano. Senta, le risorse sono poche, è vero. Però si potrebbe orientare queste spese all'innovazione, perché non è così, o poco? Perché da una parte le aziende si sono sedute da diverso tempo, dall'altra il potere pubblico difficilmente trova soldi, interesse a innovare. Trova soldi di questi tempi per innovare. Sì. E quindi c'è un gioco in negativo che si realizza e che bisogna spezzare. Senza innovazione il Made in Italy non va da nessuna parte. Appunto. Senta, ma se la maggioranza delle nuove generazioni sono disoccupate o precarie e voi non promuovete l'innovazione, per la vostra parte ha ragione Renzi, siete il freno del cambiamento. Beh, intanto la politica ha la responsabilità. Sì, ma parliamo di lei adesso. Noi abbiamo sostenuto sempre questi processi. Il nostro compito non è quello di gestire il potere, è quello di indirizzare, spingere. Di spingere il potere a fare cose buone. Quindi la politica che frusta la realtà italiana fa bene a farlo, però indica la strada, gestisca la strada. Senta, e si raccordi con tutte le realtà positive. Segretario Bonanni, per esempio, per essere concreti, lei è favorevole al cosiddetto reddito minimo garantito invece del rinnovo perenne della cassa integrazione in deroga? Noi abbiamo Noi abbiamo proposto. No, mi dica sì o no. E non posso dire sì o no, perché non sto nel gioco, appunto, mediatico talvolta. Ma qui ha mille domande. Io sono per casse integrazioni che siano finalizzate alla ristrutturazione delle aziende, al reddito minimo garantito, alla ristrutturazione dell'azienda e anche alla modifica delle proprie abilità. Ma se i soldi sono pochi, ho chiesto alla Fornero e non l'ha fatto. Speriamo adesso che lo fa Giovannini. Abbiamo chiesto cassa integrazione a condizione che si fanno corsi di formazione. Insomma, il reddito minimo garantito non le piace. Bisogna vedere che significa il reddito minimo. Bisogna vedere che significa. Senta, ma con il rinnovo continuo della cassa in deroga di cui stiamo parlando, non si ristrutturano mai le aziende, quindi niente posti di lavoro, niente giovani, e allora siamo da capo a 12. Per chi vuole il reddito minimo garantito, quello è il reddito minimo garantito. Io non sono d'accordo per il solo fatto che quella sosta del lavoratore non venga utilizzato per rifarsi una professionalità. L'abbiamo chiesto a Giovannini, vediamo se questo governo lo fa. Però... E ho chiesto anche che tutti gli elenchi dei disoccupati che sono in cassa integrazione, se rifiutano un posto di lavoro perdono indennità, se non frequentano corsi per formazione perdono indennità. Mi deve spiegare anche questo ministro perché non fa questo. Senta, io lo chiederemo, lo inviteremo. Senta, ma non sarebbe comunque un passo avanti per evitare lo scontro tra generazioni questo? Ma qual è lo scontro? Beh, non c'è un po' di scontro c'è, eh? Perché non c'è, perché si parla sempre, se si garantiscono ipoteticamente, sempre per giovani che non hanno lavoro. Non hanno lavoro, le statistiche riguardano lavoratori che vanno da 14 anni a 30 anni. A lavorare a 14 anni, a 16 anni ci vanno solo gli immigrati in questo paese. Tant'è vero, abbiamo molti iscritti giovanissimi immigrati. E i giovani italiani li abbiamo da 27, 28, 30 anni. Cioè, lei dice che i giovani italiani non vogliono lavorare prima, questo sta dicendo. Non è che non vogliono lavorare, o studiano o aspettano un lavoro migliore. I lavori pesanti, come in Germania, negli Stati Uniti e così via, come inizio la propria carriera, non lo vogliono non fare. Lo voglio più fare. Perché le famiglie, non tanto loro, le famiglie indicano questa strada, perché senta, dietro la discussione vi ho fatto studiare, quindi la delusione non è troppo forte, sarebbe. Quindi, secondo lei, il peso della crisi non si scarica solo sulle nuove generazioni con questa mancanza di strumenti adatti al rilancio? Se si vuole aiutare il giovane, lo si fa in un solo modo, combattendo la precarietà. Appunto. Pagando di più, l'abbiamo detto mille volte, pagando di più il lavoro flessibile. E invece si paga poco il lavoro flessibile. Si paga poco il lavoro flessibile, quindi i giovani, e poi quei pochi giovani che lavorano bisogna si dice pagare di che più sono il lavoro svantaggiati. Bisogna pagare... Chi fa questo discorso farebbe bene. Bisogna pagare di più il lavoro flessibile. Bisogna pagare di più i giovani. Segretario Bonanni, lei ha tre figli, cosa fanno? Ma una sta in Brasile e si è stabilita lì. Un altro è stato fino a qualche mese fa a lavorare in Spagna. Come appunto la mia amica e la mia figlia che sta in Brasile, lavora lì, e un'altra sta a Parma. Che fa? Studia? Sta studiando ancora. Senta, dal primo gennaio... E lavora anche, fa la babysitter. Noi dal primo gennaio riceveremo dall'Europa 1,5 miliardi di euro per la cosiddetta garanzia dei giovani. Ecco, che garanzia certa c'è sulla destinazione di quei soldi? Voi vigilerete? Ma la garanzia c'è per il solo fatto che è tutto legato all'assunzione. Chi assume giovani ha dei vantaggi. Quindi c'è una garanzia oggettiva. Ecco. Senta, per un sindacato però come la CISL, che su 4 milioni di iscritti, 2 milioni sono pensionati, 400.000 statali, come si fa a essere il motore del cambiamento? Ma lo siamo stati nella storia, no, sempre, vabbè, fino ai giorni d'oggi. Ma stiamo parlando di adesso? Ma sì, questo su 2 milioni e mezzo. Allora, i pensionati sono persone attivissime, persone che hanno fatto l'Italia e, sì, e farebbero bene. Sì, ma stiamo parlando del futuro. Nel futuro, e poi 2.400.000 sono i nostri iscritti attivi, in tutti i settori produttivi. Hanno rappresentato sempre la realtà più responsabile e più cosciente e più disponibile all'interesse del paese. Segretario Bonanni, se non si taglia la spesa pubblica si muore, perché non si potrà mai investire. Lei dove taglierebbe subito? Me lo dica però. Io taglierei subito sul fatto della spesa standardizzata che non vogliono fare perché vogliono solo favorire le tangenti. Nell'accordo che c'è tra alcuni ambienti economici e politici, mi dica dove, però mi dica dove, uno. No, ma la conoscono tutti, dappertutto. Ma lo dica, allora lo dica. C'è in comuni costa, cioè, questa le siringhe, quella roba là, così. In un posto costa 100, sanità, in un posto 200. Ma io lo denuncio sanità da 5 anni, dalla sanità, negli enti locali, nelle esternalizzazioni, nelle consulenze, nei 30.000 punti di appalto che non si capisce. Senta, segretario Bonanni, per gli statali che voi rappresentate, la mobilità, come chiede il commissario per la spending review Cottarelli, voi l'accettate? Gliel'ho detto a Cottarelli, benissimo, si discute ragionevolmente. Sì o no? Sì, si discute. Ok, come principio l'accettate. Senta, quanti dei 36.000 punti di centri di spesa autonoma dello Stato rappresentate voi? Sa che c'ha 36.000 punti di spesa. Certo. Tanti. Tant'è vero, nella nostra piattaforma contro queste vicende diciamo che bisogna abolire 30.000 stazioni appaltanti perché sono troppe e non sono attrezzate. Va bene, resteranno 6.000. Ok. Intanto, segretario Bonanni, il governo Letta è alla sua terza ripartenza. È quella buona, secondo lei? Ma secondo me il quadro politico è più chiaro, sembra così. Ora, se sembra, è così, ne approfitti. Ma le sembra un governo, un governo o un governicchio? Ma è un governo, capirai, a confronto con tanti altri governi nell'ultimo ventennio, la Seconda Repubblica è stato un susseguirsi di governicchi. Quindi questo è un governo. È un governo, come gli altri governi. E lei crede al rapporto solido fra Letta e Renzi? Ci crede? Ma se l'hanno annunciato... Vabbè, adesso... Sì, ma ci credo perché hanno convenienza ambedue a far funzionare il giocattolo. Senta, voi avete fatto con gli imprenditori un patto per cambiare la legge di stabilità. Che cosa è irrinunciabile per voi? Abbassare le tasse. E per abbassare le tasse per un paese che ha il debito e che non cresce, bisogna assolutamente fare due cose assolutamente indispensabili. Aumentare la produttività del paese e tagliare le tasse. Tagliarle dove? In tutti gli sprechi e le spese deviate che ci sono nel pubblico. Quello. Cioè, ogni soldo. Sempre, siamo sempre le siringhe, di questo parliamo sempre. No, non solo per le siringhe. Per fare degli esempi, perché sì, non me li fa. Cioè, me li faccia. Sì, diciamo le siringhe. Ah, non solo le siringhe, ci sono molte questioni. Insomma, la sanità prima di tutto, altri, perché molte la sanità innanzitutto, e poi l'esternalizzazione degli enti locali, e poi l'accorpamento degli enti locali, e poi la sfoltitura dei poteri delle regioni, e poi l'eliminazione delle province, e poi tutte le baracche che hanno i comuni e le regioni, le cosiddette aziende in house e così via. È lungo, se volete, segretario Bonanni. Tutti i soldi che si recuperano lì devono andare a abbassare le tasse. Sì. Tutti i soldi che si recuperano, questo è il patto, dall'evasione fiscale devono andare automaticamente a abbassare le tasse. Però intanto di questo taglio strutturale delle tasse nella legge di stabilità non c'è traccia per adesso. Quindi se non si sciopera, cosa si fa? Visto allora, che non si sciopera più. No, il presidente. No, abbiamo fatto uno sciopero. No, purtroppo, vabbè, ma adesso. E domani ci mobilitiamo in tutte le città d'Italia proprio per sostenere questa idea. E Letta ha annunciato che lo farà. Io sono fiducioso, se non dovesse fare, noi diremo di tutto contro di lui. Diremo tutto il bene di questo mondo se lo fa. A me risulta che lo vuol fare. All'ultimo momento di inserire nella legge di stabilità un provvedimento che renda automatico il recupero dei soldi dall'evasione e dalla spending review verso l'abbattimento delle tasse per lavoratori, pensionati e imprese che investono. Letta Bonanni si è impegnato con voi a abbassare le tasse. Questo mi sta dicendo. Sì, ha fatto un'intervista ultimamente Sul Sole 24 Ore e ha detto io faccio questo. Benissimo. Come mi hanno chiesto lavoratori e imprese. Benissimo. Però se Saccomandi vuole usare i soldi della spending review per abbattere il debito e non per fare gli investimenti, come ha detto, che fate? Lo cacciate? È una vecchia storia questa. Ma chiedete le sue dimissioni? Il debito si abbatte nello sviluppo. Ridare i soldi alla gente significa spendere e agitare meglio Bonanni, i consumi. Le ho fatto un'altra domanda. Le ho chiesto se lui non userà quei soldi per gli investimenti, ma per abbattere il debito, chiederete le dimissioni di Saccomandi? Chi comanda in un governo è il capo del governo. Saccomandi non credo che abbia più potere di Letta. Se Letta decide, il problema è Letta, non è Saccomandi. Se Letta decide, quello si fa. Saccomandi può avere opinioni anche diverse, come mi è sembrato avesse, però sbaglia, perché sta ricalcando le stesse strade dei ministri dell'economia degli ultimi anni. Ecco, quindi è a rischio Saccomanni, mi pare di capire. In Europa, per esempio, Letta o Saccomanni hanno fatto valere abbastanza gli interessi italiani rispetto allo sviluppo? Per far valere gli interessi italiani, il sistema Italia delle istituzioni deve spendere ogni soldo. Questa storia che loro ci fregano e noi siamo derubati è sbagliata. Noi ci derubiamo da soli perché tutti i soldi europei non li spendiamo. Certo, questo è vero. Senta, adesso anche la Spagna è ripartita. Cresce poco, ma crea occupazione. Che cos'ha la Spagna che l'Italia non ha? Ha un sistema economico molto meno complesso del nostro. Non ha molta industria, poggia molto sull'edilizia, ha fatto ripartire l'edilizia che è un settore anticiclico e molto viene da questo. Poi naturalmente viene anche da una realtà più ordinata. La politica è più stabile in Spagna, qui è instabile, è un casino continuo che danneggia l'economia, danneggia i giovani. Questo danneggia i giovani. Senta, ma con la flessibilità maggiore del lavoro che c'è in Spagna, questo è stato un elemento della ripresa spagnola? La flessibilità è importante, insisto, la flessibilità va pagata, perché se viene pagata tutte le contribuzioni vengono fatte, quindi si è flessibili ma si è tutelati. Ma lei lo vede da qualche parte qualche segnale di ripresa, un po' di luce in fondo al tunnel, la vede oppure no? Si dice così, io sono ottimista, non ho nulla in contrario, però dico che i veri ottimismi devono essere fondati su dati, ecco, sugli ma io indicatori, le chiedo se li vede questi indicatori è o molto no? Presto per vedere questo. Perché? Ho paura persino che vada peggio se non la si smette con questa situazione italiana, dove ognuno scarica il balire sull'altro, come se dovesse qualcun altro rimettere in pista l'economia che va malissimo, cioè, perché il sistema politico e economico che girano male, perché siamo fatti male. Sono 20 anni che nessuno si cura delle cose che danno da mangiare alla famiglia Italia. E quindi c'è una crisi vera di classe dirigente, perché c'è lei sta una dicendo crisi questo. Vera di c'è un non senso, un inseguimento demagogico alla, tutti ai populismi. A fare demagogie e populismi. L'Italia, se non la smette, morirà di populismo. Ecco, il sindacato, per non morire di populismo, il suo sindacato, mi dica una cosa anche controcorrente, che è in grado di dire. Dico che bisogna riprendere in mano i fattori tutti che ci fanno che vivere, capisce. E ma che più di questo, lo sanno tutti. Cosa fa? Noi siamo manufatturieri, noi siamo trasformatori, tutti i fattori dello sviluppo sono tutti rovinati, dell'energia chi si occupa? Nessuno, delle infrastrutture chi si occupa? Nessuno, della giustizia lenta sull'economia chi si occupa? Nessuno. E chi se ne occuperà allora? Delle lei tasse, da chi si aspetta che se ne occupi? Bisogna far che lei se ne fa parte della classe sì, dirigente. Sì, certamente, del paese. Tant'è vero, faccio la mia battaglia, se ne occupare il governo centrale, i governi locali, le classi dirigenti del sindacato, delle imprese, tutte le realtà organizzate devono premere la stessa parte. Però non lo perfino fanno. Il sistema mediatico deve modificare, perché è diventato, molti sono perfino untori del populismo ed è diventato vero. Una vergogna quello che succede in Italia. Basta, c'è tanta un'Italia buona che va premiata, che va raccontata, non c'è dubbio. Perché è da questo che viene la spinta su questo morale nuova. La provocazione, perché ha ragione. Senta, un'ultimissima domanda: a quanta la dà la durata a un anno del governo Letta Alfano? Ma mi pare che sono messi d'accordo che fino al 15, al 2015, non si fa nulla. E lei ci crede? Ha detto sì. Ci credo se anche Presidente della Repubblica Napolitano. Ah, beh, lui penso che ci creda più di tutti. No. Ci crede più di tutto. E lui è un custode molto, molto fedele e molto... Ma ha troppo potere Napolitano in Italia? Per fortuna ha quel potere che compensa il disordine di potere che c'è in Italia. Grazie. Grazie segretario Bonanni. Numero verde 800 24 00 24, il numero di SMS 349 238 6666, pubblicità. Mix 24. Perché da una riccia te cacciano capricci, da una riccia non la voglio, no. Perché da una riccia te cacciano capricci, da una riccia non la voglio, no. La una riccia non la voglio, no. E allora? Buongiorno. E allora, buongiorno Pietrangelo. Buongiorno. Allegria. Allegria? No. Sì, sì, un'elettricità. I ricci sono elettrici. E poi che non si dica che io convochi ogni volta artisti o voci della mia isola, della Sicilia, perché c'è Etta Scollo, che è una grande artista tedesca, e la lingua è salentina, e quella di Carmelo Bene, quella di Domenico Modugno, la donna riccia, proprio perché i ricci, ma questo vale anche per gli uomini, sono dei meravigliosi capricci che preludono a metafore ghiottissime. Accidenti, senti. Ispirato, eh? Ispirato sì, oggi. Intanto un bene. Titolo dell'intervista? Buon Mario? Anno. Buon anno. Buon anno. Buon anno. No, io farei un commento, perché i cattivi hanno sempre ragione. Ho colto nell'intervista un concetto a me caro: la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'azienda. Si chiama corporativismo, è Ugo Spirito. Si chiama congestione, in Germania la fanno Ugo da Spirito. Tantissimo tempo, non so se l'avevano letto. Senti, Giovanni Gentile, dunque, insomma sì, queste cose così. Ma viene da lontano, non solo da lì. Senti, siamo bolle e salamini. Bolle. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese. E l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Insomma, questo Benigni oramai è la nostra sigla. Anche tra le tante. No, ma ci introduce cosa? Ci introduce la legge elettorale. Hanno deciso di invertire Grasso e Boldrini, i presidenti di Senato e Camera, si sono scambiati il testimone. La legge elettorale passa alla Camera, il Senato discuterà la propria autoriforma. Buonanotte, aggiungo, vediamo cosa succede. Non ho mai visto nessun tacchino andare al pranzo del giorno del ringraziamento. Comunque, vediamo un po'. Poi c'è corso un consiglio dei ministri, è stata annunciata l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Cinquantesima volta, sì, che lo sentiamo, credo, sì, che più o meno, che sì, lo sentiamo, sì, vabbè, poi vediamo prima cosa, dopo forse cosa succede. Insomma, speriamo, comunque è tempo, speriamo, di salamini, credo, no? Sì. Salamino. Ovviamente un giorno facciamo Gogol, un altro Balzac. E oggi? Oggi è la giornata di Balzac, perché Balzac, firmandosi su Repubblica con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa, ci racconta il piano d'attacco del Cavaliere. Il leader di Forza Italia prepara un videomessaggio, ma anche tante azioni eclatanti. E quindi, per denunciare il colpo di Stato, chiede che i deputati... Devi assumere un tono per denunciare il colpo di Stato? Così, no, che c'entra? Dire. Quelli che parlano così l'hanno fatto il colpo di Stato. Certo. Beh, allora, ma quello è il Palazzo della Rivoluzione. Palazzo della Rivoluzione. Insomma, come si suol dire, la cera squaglia e la processione non cammina. Nah. Allora, vuole i deputati a Palazzo Madama e Montecitorio a fare le occupazioni. Altri dirigenti, invece, a Viale Mazzini o a Saxa Rubra, nelle sedi RAI, a occupare simbolicamente. Ma Gianfranco Rotondi, che è un surrealista, un dadaista, un situazionista, un gigante, un grande, ha proposto l'idea delle idee, quella di occupare, anzi di oscurare tutte e tre le reti Mediaset e così denunciare questo piano di aggressione. Colpo dadaista. Ma ascoltate, non si interrompe un'emozione, infatti... Sogno Giaggiuclone, io oggi mi vedo un bello caffè. Vediamo se posso attaccare, va? Che ci sono bello e femmine oggi. Ecco, si potrebbe mai interrompere un'emozione. Alla proposta di Rotondi di oscurare le tre reti, Berlusconi ha detto una cosa che sostanzialmente si conclude in un concetto: non scherziamo con la mobilia, e che rinuncia ai contratti di pubblicità. Forza, vabbè, George Clooney. Vabbè, conserva lucidità. Berlusconi, sentiamo. Tremendo, tremendo, tremendo. Notizia più importante, ci sono due notizie grosse oggi sul fronte internazionale, cioè le cose che cambiano un po'. In Nord Corea lo zio di Kim Jong-un è stato ucciso. Ti ricordi che ne avevamo dato l'arresto in diretta televisiva, no? E come mai? Niente, lì sta cambiando qualcosa. Sì, quello era il numero due del regime. Cioè, traballa il regime. Si sta rafforzando, ma non si capisce niente, sai, è una di quelle cose molto opache. Perfino, lo zio. Ti ricordi ai tempi dell'Unione Sovietica c'erano i kremlinologi. Ora, questo ammazza lo zio, che succede? Bisogna staremo a vedere, però ovviamente trattasi di potenza nucleare, di regime assolutamente. Per questo ci interessa, ne parliamo, per questa ragione. Esatto. E poi l'altra notizia grossa: il giacimento asiatico è pieno di petrolio. No, accidente, magnifico. Allora, qua era Dallas, no? Solo che il giacimento non è asiatico, ma è il petrolio messicano, molto importante, come sapete tutti. Il Messico, dopo 75 anni, apre il mercato petrolifero ad aziende straniere. È una decisione come molto... Mai? dovevano aprirlo, era logico. Sai, tutto quello che sta succedendo, per esempio durante la tua intervista a Scaroni l'altro giorno, sono emersi molti elementi, nuovi, lo shale gas, l'autonomia energetica americana, le difficoltà dello stesso Messico a fare il player con i confini chiusi su un mercato del genere. Quindi è una grossa notizia, vediamo chi saranno i primi operatori a entrare. Altra cosa molto interessante: Bitcoin, cioè la moneta virtuale. Ne abbiamo parlato qua, Giovanni, è una grandissima bolla. Cioè perché? La fluttuazione nella scorsa settimana la dice tutta. È passata da 340 a 1240 dollari la valutazione. È uno scambio che avviene... è passato da? 340 a 1240 dollari. Diciamo che c'è un'escursione, altro che bolla, no? Interessante questo fenomeno perché è una moneta che circola solo sulla rete, su protocolli definiti sicuri. In realtà ci sono molte preoccupazioni sugli attacchi, i cyber attacks, no? Sugli attacchi informatici usando questa moneta. Come si dice? Cyber attacks. Cyber attacks. Quindi c'è anche cyber warfare. La C, la Y e attacks. No, con CKS finale. Sembri Riotta quando parli. No, ma lui parla. Se mi dici Riotta, mi alzo e me ne vado. Anzi, sei Bernini. Ancora peggio. Cattivissimo, proprio. No, ma io non sono. Non ne risparmia una lui. Ma no, ma io non sono così intelligente, così saputo e non mangio con le posate se a tavola. Se perdonami. Fossimo così intelligenti, non saremmo qui, no? A Detroit. A Detroit tutti. Senti, no, invece è molto interessante. Un'altra cosa viene sempre da Wall Street. Dicevamo ieri di JP Morgan. Segnalo. Allora, soldi perché? Perché JP Morgan ha, diciamo, quantificato quello che sarà il risarcimento per il caso Madoff, in cui anche loro sono rimasti coinvolti. Ne abbiamo dato notizia ieri, la continuiamo oggi perché c'è un aggiornamento: 2,5 miliardi di dollari di risarcimento. Sì. Fines alle vittime. Sì, il 74% di quello che hanno perso, più o meno, mi pare che si arrivi. È interessante, è un passo, secondo me non sarà l'ultimo dei cosiddetti Ponzi scheme, no? Delle truffe fondate sul niente. Ce l'hai raccontato appena uno prima, questa quindi, bolla della moneta elettronica, sembra che... È incredibile, E infine... una cosa molto bella perché cinema Zalone ha superato i 50 milioni di incasso e in Italia però in testa adesso è Hunger Games, c'è al secondo posto c'è il film di Woody Allen che io non ho ancora visto, tutti dicono sia molto bello, Blue Jasmine, poi c'è La mafia che uccide che io non ho ancora visto poi... ce ne parlerai quando l'hai visto e intanto poi... io ricordo 8-0 e poi al volo che e poi a Ravenna c'è una cosa. Ravenna c'è una cosa, ne parliamo subito dopo la viabilità. Mix 24 800 24 00 24 349 238 6666 il numero per l'SMS. Sabato a Ravenna c'è un convegno organizzato dalla Fondazione Raul Gardini per parlare di chimica verde partendo proprio dalle grandi intuizioni di Gardini. Katia Bastioli, amministratore delegato di Novomat. Buongiorno Gardini, credeva nell'incontro tra la chimica e l'agricoltura. Cosa c'era di geniale in questa intuizione? Quando lui ha iniziato, cioè nell'87-88, nessuno pensava che questi due mondi potessero parlarsi. Oggi tutto il mondo guarda quella che si chiama bioeconomia, che è proprio l'interazione tra questi due mondi, come la grande prospettiva del futuro. E quindi era un visionario, ma anche un uomo concreto. Assolutamente, e d'altra parte appunto in questa sintesi di vedere lontano ma di essere capaci di costruire c'è la possibilità di cambiare il mondo. Ecco, ma Gardini è stato un pioniere della green economy, quindi in questo senso? Decisamente sì, e non solo, ma anche il suo modo di declinarla era originale, perché le radici nella terra, ma le competenze chimiche per poter trasformare gli scarti e i prodotti in qualcosa di diverso, quindi veramente pionieristico. Strategico, e quindi contadino riferito a lui era un complimento. Beh, sì, contadino non solo, ma oggi sta proprio in questo nuovo rapporto tra l'agricoltore e il mondo industriale, la creazione di un nuovo sistema di sviluppo, e quindi chiaramente quel contadino inteso come rispetto per la terra, rispetto per quello che per la madre terra, che ci dà qualcosa di veramente eccezionale, quell'idea di sistema circolare è sicuramente quello che oggi guardiamo con grande interesse, ecco, quando parliamo di bioeconomia. Ecco, delle ricerche iniziate sotto il suo impulso, qual è la più importante che resta? Ma diciamo che certamente, parlando con me, ritengo che sia tutto il lavoro che è stato fatto sulle bioplastiche, che non tanto perché le bioplastiche rappresentino un prodotto straordinario, ma perché siamo riusciti, attraverso lo sviluppo sostenibile delle bioplastiche biodegradabili, a creare una filiera integrata che va dall'agricoltura all'industria, che ripensa completamente il modo con cui i prodotti vengono fatti, quindi con questa nuova sintesi tra agricoltura e industria, modo di pensare i prodotti, ecco, e dottoressa, fine vita, per esempio. Dottoressa, quindi la vera green economy oggi è la bioeconomy. Sì, diciamo che la green economy è la bioeconomy, ma la bioeconomy, la bioeconomy deve essere ancora una volta declinata in modo corretto per poter fare veramente qualcosa di importante. Ecco, per parlare di questo, lei dice che nella tensione tra la concezione a breve e a lungo termine c'è in gioco il destino dell'umanità. Esattamente cosa vuol dire in due parole? Vuol dire che nel momento in cui guardiamo, cioè quando facciamo le cose, costruiamo senza però, volendo tirar fuori il profitto, senza avere una visione sistemica, questo può creare dei grandissimi guai, e non solo, ma occorre avere appunto visione sistemica, perché altrimenti gli tsunami della finanza, dell'economia, dell'ambiente e dell'industria nascono proprio da questa visione a breve termine. È un po' come immaginare appunto un bosco in cui facciamo crescere un pino per chilometri e tutto il sottobosco non c'è più. Certo. È questo rispetto della biodiversità, che significa non solo biodiversità dell'ambiente, ma anche delle imprese, ma anche appunto del territorio in generale, che diventa la grande opportunità per la bioeconomia. E quindi la natura, che è più intelligente dell'uomo, l'albero all'infinito non lo fa crescere. Ecco, senta, le faccio un'ultima domanda. Il Kyoto Club, di cui lei è presidente, che obiettivi ha, in due parole? Il Kyoto Club guarda soprattutto alla questione del clima e alle imprese e alle istituzioni che, lavorando insieme, possano veramente minimizzare questo impatto, e cerca di creare anche delle informazioni, una scuola, diciamo, sul basso impatto, sempre nell'ottica sistemica. Grazie, dottoressa. Ecco, è lunedì. A Mix24 racconteremo la storia di Raul Gardini. Mario, dov'era il canone ieri sera? Non lo so, perché seguivo, ahimè, il dibattito sulla legge elettorale con minacce di crisi varie, eccetera. E tu? Tele Durruti di Fulvio Abate. È bellissimo, un canale meraviglioso, ormai lo consiglio agli ascoltatori. Ormai Tele Durruti, si fa le pubbliche relazioni continue, è una compagnia di giro. No, provate a vedere, sì, vi piacerà. Che lo vediamo. Ecco, Tele Durruti. Il professore oggi non c'è, e allora parliamo di un nuovo programma di Paola Perego. Perché? Com'è stata sostituire Mara Veniero? È faticoso, difficile, come sempre quando sostituisci personaggi comunque che lasciano un'impronta molto forte, no? La gente identifica il programma con quel personaggio, come quando ho sostituito Rita Dalla Chiesa a Forum, insomma anche in altre esperienze. C'è un tempo di adattamento, sì, no? Poi sì. Ci sono state anche polemiche un po' tra autori, eccetera, quelli di prima, di a dopo. Ma insomma, un avvicendamento normale? Sì, no, l'avvicendamento normale. Le polemiche, guarda, molto di più quello che hanno scritto di quello che realmente è accaduto, in verità. Non è capitato molto. No, decisamente no, una nuova linea editoriale da seguire, quindi ci vuole adattamento per tutto, no? Per la nuova linea del programma. Ecco, la linea editoriale è cambiata in cosa, in due parole? Quello che a noi hanno chiesto di alzare un po' il livello e di evitare tutta una serie di cose. Sulla cronaca nera un po' troppo forte. Cronaca nera si può fare, ma con un linguaggio diverso, ammorbidirla in qualche maniera. Ok, tu adesso comunque stai per partire anche con un altro programma tuo, Super Brain. Super Brain, no, sì. Ecco, volevo farti una domanda. Sì. Si parla molto di bollino adesso nel nuovo contratto di servizio per i programmi di servizio pubblico. Sì. Ecco, se ci fosse da mettere un bollino per certificare i programmi pagati col canone, il tuo nuovo programma lo avrebbe? Diciamo che non è proprio servizio pubblico, non è esattamente questo, è più intrattenimento, no? Vabbè, io ma per c'è anche pubblico... un intrattenimento di servizio pubblico. Allora sì, ecco. Sì, se è intrattenimento sì, perché comunque un programma per tutta di la qualità. Famiglia, un programma sicuramente di qualità, un programma pulito, un programma veramente che possono seguire i bambini, i genitori, gli anziani, tutti. Per cui sì, sì, un bel bollino. Vedi? Senti, sei emozionata per questo debutto? Sì, sempre, ma io mi emoziono sempre tantissimo, non dormo la notte prima, vivo sempre questo lavoro con grande angoscia e passione, che è poi il suo bello. Cioè, è bello, è irripetibile. Senti, un'ultima domanda, ma com'è avere un marito che è anche manager e produttore? Aiuta o complica? Complica, a me complica. Perché? Per quanto tutti pensano che mi aiuti, intanto perché lui è così serio che se dovesse proporre una persona piuttosto che essere presente nelle decisioni autoriali lo farebbe con tutti tranne che con me, proprio perché non si pensi quindi che io sia una privilegiata. Quindi più svantaggi che vantaggi. Sì, e poi tutti pensano che io lavoro solo perché ho lui come marito. Vabbè, quindi... ma questo è l'invidia, no, l'invidia muove il mondo. No, no, ma figurati, di questo non mi importa assolutamente nulla, però non ho tutti questi vantaggi che tutti credono. Il vantaggio è che posso chiedergli consigli alle 2 di notte, mentre magari gli altri devono aspettare gli orari d'ufficio. Ma detto ciò, per il resto... Allora, tanti auguri per il tuo programma. Grazie ciao. Mille. Ecco, oggi con la storia di Mix 24, a cura come sempre di Marina Milone, ricordiamo la vita di Nelson Mandela, un uomo che ha nutrito il sogno di un mondo migliore per l'umanità. Dopo il giornale radio.